su per i monti che noi saremo. Alemanno, il sindaco in giacca vento di Roma, insiste. Vuole una pista di sci sul litorale di Ostia. Puzzolo della montagna con la neve alta così. Alemanno farà discesa libera, come tutto il PDL. Con i piedi un paio di sci.